buongiorno a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9 e questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio, Archie Shepp vi introduce a una nuova puntata di Attica Blues. Allora eccoci qua in questo afoso, torrido 2 agosto e siamo arrivati, ahi noi, all'ultima puntata stagionale per Attica Blues. Il buon Pietro in realtà non è qui con me, è già in vacanza e allora buone vacanze in anticipo. Oggi concludiamo in bellezza e proseguiamo quel viaggio che avevamo iniziato la settimana scorsa intorno alla black music. Eravamo partiti dall'Africa, dal Mali, ci eravamo spostati in Sudafrica, poi in Senegal e poi ancora ai Caraibi, a Cuba, per finire in Brasile. Ed è proprio dal Brasile che ricominciamo questa puntata. E a Rio incontriamo un pianista italiano. Lui è Stefano Bollani. Il buon Bollani si è recato a Rio de Janeiro e il 25 maggio ha pubblicato proprio questo Che Boom, un'uscita fresca fresca, e accanto a lui grandi rappresentanti della musica brasiliana come Jorge Helder al contrabbasso, Jurim Moreira alla batteria, Armando Marchal alle percussioni e altri artisti amati da Bollani come Caetano Veloso, João Bosco, Hamilton de Holanda e Jacques Borelenbaum. Lui che è sempre stato un amante della musica brasiliana e già aveva fatto uscire il disco Carioca una decina d'anni fa, in cui reinterpretava alcuni successi della musica brasiliana, e invece adesso i brani sono tutti a firma sua, però con musicisti brasiliani. Bollani che è anche in concerto in questi giorni proprio con questo quintetto, e insomma musica allegra, spensierata. Stefano Bollani, Che Boom! Rimaniamo in Brasile in un certo modo con un album in realtà uscito poi nel 1962, quando scoppiò anche negli Stati Uniti la moda della bossa nova, questa moda che pervase anche molti jazzisti, fra cui Sonny Rollins, che con un album appunto uscito nel 1962, What's New, unì i suoni della musica brasiliana con quelli più familiari a lui del calypso. E allora ci ascoltiamo il brano che chiude questo meraviglioso album, un album in cui compare anche il chitarrista Jim Hall, Bon Crashlow al contrabbasso e Jimmy Jones invece agli arrangiamenti e alla batteria, Ben Reilly. E allora questa è Brown Skin Girl. Calypso, sempre caro a Sonny Rollins, originario anche dei Caraibi, la mamma era nata a St. Thomas, e lui poi che poi ha reinterpretato vari traditional, l'ha sempre messi nelle sue scalette, soprattutto nei live, e anche quel St. Thomas che deriva da un calypso dell'isola appunto di St. Thomas, e poi lui in realtà se l'è accreditato e da lì è diventato uno standard del jazz. E il sottotitolo di questo What's New recita: Bring to Jets a New Rhythm from South America. Sonny Rollins Quintet. Dai Caraibi, rimaniamo ai Caraibi e ci spostiamo a La Habana, Cuba, dove il 7 aprile del 1922 nasce Mongo Santa Maria, uno dei più grandi percussionisti anche poi della storia del jazz, perché lui, che aveva iniziato la propria carriera al Tropicana Club della Habana, poi ben presto si recò a Città del Messico e poi da lì nel 1950 si trasferì a New York. A New York, dove incontrò Tito Puente e cominciò a fare le sue prime significative registrazioni con la Fantasy Records. Il suo secondo album per la Fantasy, uscito nel 1959 dal titolo Mongo, conteneva anche una composizione chiamata Afro Blue. Questa composizione poi divenne rapidamente uno standard per il jazz latino e soprattutto ripresa e confezionata alla grande da John Coltrane. Ed è proprio questa, Afro Blue, Mongo Santa Maria. We'll be right back. la vera svolta arrivò 4 anni più tardi per Mongo Santa Maria, esattamente nel 1962, in quella che sembrava veramente una serata sfigata. Ed era infatti in un locale del Bronx, lui doveva tenere un concerto e si accorse però che nel locale erano presenti solo 3 spettatori. Ma ovviamente non si perse d'animo, cominciò a suonare e lì incontrò anche un giovanissimo pianista, Herbie Hancock. Herbie Hancock che gli fece sentire una sua composizione, Watermelon Man, e così Mongo Santa Maria decise di poi registrarla facendo la fortuna sua e di tutto il Latin Jazz. Quel singolo che addirittura balzò al numero 10 nella classifica pop nel 1963. Anche se dobbiamo ammettere che la versione di Herbie Hancock è molto, molto più bella. E da Lavana ci spostiamo, il passo è breve, inevitabilmente in Giamaica, e qui troviamo a Kingston un personaggio chiamato Jackie Me Too. Leggenda del reggae, era forse il più influente come mentore di innumerevoli artisti più giovani, principalmente attraverso il suo lavoro come direttore musicale presso il famoso Studio One di Coxon Dodd. E infatti Jackie Me Too iniziò a suonare le tastiere all'età di 4 anni, ma ben presto, quando Coxon Dodd aprì il suo Studio One nel 1963 a Kingston, toccò proprio a Jackie Me Too come direttore musicale e occuparsi di tutte le produzioni. infatti, negli anni successivi ha suonato praticamente su tutti i dischi prodotti dallo studio One, disponendo anche di una gran parte del materiale e aiutando a sviluppare nuove canzoni. Fino poi anche al 1964, quando iniziò a formare una nuova band con Tommy McCook, Lloyd Bravett, Lester Starling, nonché Lloyd Cribb e Johnny Watkins, e ossia gli Scatalites. E da Evening Time passiamo adesso a Napoleon Solo. (06) 49 17 50 è il numero di telefono, fatevi sentire. E riprendendo gli Scatalites, in cui si unì anche il trombonista leggendario Don Drummond. In realtà poi il gruppo, in questa formazione originale, durò solo 14 mesi, dal giugno 1964 all'agosto del 1965. E così, oltre a essere il direttore musicale della Studio One, Jackie Me Too intraprese anche una brillante carriera solista, pubblicando diversi album, quasi tutti per la Studio One. Però continuava anche parallelamente il suo lavoro con appunto il ritmo incessante per la Studio One, e il contratto addirittura prevedeva che lui doveva consegnare 5 nuovi ritmi a settimana. Allora il trillino è arrivato tardi, il brano sta per finire, ma tanto rimaniamo in Giamaica. E allora ancora reggae music qui ad Attica Blues. Rimaniamo in Giamaica con un personaggio chiamato Justin Hines. Natty Takeover. Take over, dreadlocks be your savior. teach me the golden rule. Even the birds in the tree singing this song to me, telling me that everyone should be free. Nothing, nothing they cover. La carriera di Justin Hines si colloca in quel periodo degli anni 60, fra lo sviluppo della musica ska, come detto, e la nascita del rocksteady. Justin Hines sicuramente uno degli artisti di maggior successo in quegli anni sulla scena musicale giamaicana. Infatti prodotto e sfornato centinaia di singoli, tutti prodotti da Duke Reed, lui che era appunto la stella di questo produttore, tra il 1963 e il 1972. Justin Hines, che nasce il 7 maggio del 1942 nella baia di Sant'Anne, come Marcus Garvey, come Bob Marley e come Barney Spear. Che poi si è unito anche a un gruppo, a un duo vocale chiamato i Dominos, composto da Dennis Sinclair e Junior Dixon. Teach me the golden rule. Even the birds in the tree singing this song to me, telling me that everyone should be free. Nothing, nothing take over. Sicuramente fra gli artisti più prolifici, tra il 1964 e il 1966 ha sfornato ben 70 singoli, tutti in classifica e con una sessione con dei musicisti talmente famosi che appunto potevano comprendere Tommy McCook e i Supersonics. E poi il successo vero nel 1968 con questa Carrie Go Brigh Home. It's Carrie Go Brigh Home, my dear. Home, no. In Mount Zion, successo davvero incredibile nell'isola, quello di Justin Hines, un successo che poi costrinse anche suo cugino, che stava muovendo i primi passi, Horace Hines, a cambiare il proprio cognome proprio per non essere confuso con quello ben più famoso del cugino, appunto Justin Hines. E parliamo di Horace Andy, che poi insomma ha avuto una carriera altrettanto gloriosa. Comunque singoli circoscritti all'isola di Giamaica, era musica che non veniva esportata, non veniva capita ancora all'estero. Ricordiamo che qua siamo nel 1968 e il fenomeno reggae esplose nel mondo qualche anno più tardi, nel 1972, quando l'Island Record pubblicò una colonna sonora, e infatti è il film che diede popolarità alla musica. In realtà poi il film rimase circoscritto pure qui solo per i giamaicani, il film non ottenne molto successo, ma tantissimo successo lo ottenne la colonna sonora di The Harder They Come. Ok, allora questa volta la rimettiamo da capo. Trillino, hai vinto tu. The Harder They Come, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, che è anche l'attore protagonista di questo film, questo bellissimo film tra l'altro, e lui con il regista Perry Ansel ha appunto curato la colonna sonora e quindi la scelta dei brani che sono dei singoli pubblicati in Giamaica dal 1967 al 1972. Ci sono gruppi come i Melodians, The Stickles, Dil DJ Scotti, Desmond Dekker, Toots and the Maytals, e insomma il meglio di quegli anni. E questa invece che è la title track, The Hard of the Gum, è l'unico brano espressamente composto per il film. Adesso rimaniamo ancora in Giamaica con appunto la band che è più influenzato e caratterizzato negli anni 60 il suono della Giamaica, appunto gli Scatalites, che riprendevano una sorta di mashup musicale di calypso, di mento, di R&B, di rock and roll e di jazz che ha preceduto il reggae e il rocksteady. E allora noi ce l'ascoltiamo, loro che sono nati nel 1964, in un disco bello, un bel disco rievocativo che festeggiava i 30 anni di attività, e per questi 30 anni loro si sono recati in quel di New York, dove hanno incontrato diversi jazzisti che hanno collaborato appunto alla reinterpretazione di alcuni loro brani, e troviamo il trombettista Lester Bowie, il sassofonista David Murray, Steve Tuer al trombone, e insomma tanti, Monty Alexander, che è un jazzista che poi in realtà è nato a Kingston. E allora noi abbiamo scelto una traccia che è a firma in realtà di David Murray, quindi un'avanguardia del jazz, ed è un omaggio ad Albert Tyler, un discepolo di John Coltrane, però qui loro la rifanno in versione ska, Flower for Albert. leggenda narra che nel 1966 l'estate in Giamaica era davvero torrida. Allora così i DJ decisero di rallentare i ritmi proprio per consentire alla gente di poter continuare a ballare e anche ai musicisti di poter suonare con più facilità. Ed ecco allora le aggiunte delle prime voci, i primi singoli, Alton Ellis, Ken Booth e quindi la nascita del Rocksteady. Questa non è una produzione original, ma una produzione recente del 2016 della Dapton Records, quindi ci spostiamo a Brooklyn. E loro sono i Frighteners. Formato da Daniel Klein alla voce, Preet Patel e Chuck Patel, due fratelli al contrabbasso, al piano e al basso elettrico, e Rich Terrana alla batteria. Un gruppo, come detto, abbastanza recente, nato nei club di New York nel 2012. E poi però messo sotto contratto dalla Dapton Records di Gabriel Roth e nella realizzazione appunto di questo album Nothing More to Say, il cantante Klein fu presto diagnosticata la SLA. Così fece in tempo solamente a finire la pubblicazione, la registrazione di questo album, e morì il 6 giugno del 2016, poco dopo aver assistito a un concerto della stella della Dapton, Sharon Jones. Poi fu pubblicato soltanto 3 mesi più tardi, il 2 settembre del 2016, ma è un album che suona davvero bene. Rimaniamo alla Dapton, l'abbiamo nominata prima, lei è assolutamente la regina di questa splendida casa discografica. Sharon Jones, The Dap King, per quanto tempo dovrò ancora aspettare? persona, questa splendida voce, insomma, ha ottenuto la sua rivincita. Lei che a metà degli anni 90 fu scartata dalle major in quanto troppo grassa, troppo bassa e troppo nera. Poi le dicevano che aveva un suono troppo antico, che appunto richiamava al soul degli anni 60-70. E la sua fortuna fu quella di incontrare Gabriel Roth, che all'epoca ancora non aveva fondato la Dapton ma la Disco Records, e nel 1996 la mise sotto contratto e poi ovviamente la fece diventare la stella della Dapton Records. Sharon Jones. Sharon Jones, che morì due giorni dopo le elezioni di Donald Trump, e disse lei stessa a Gabriel Roth: evidentemente non sono pronta per avere un presidente così. Rimaniamo ancora alla Dapton, questa bellissima casa discografica di Brooklyn, e qui adesso incontriamo Naomi Shelton con le sue Gospel Queens. Right now, oh, what is this? Make me wanna run on anyhow, whatever it is. Yeah, yeah. Boy, I cannot hold back my peace. What is this? Say I'm acting kind of strange. Oh, what is this? Every day I love calling your name, whatever it is. Yeah, yeah. Oh, I cannot hold back my peace. Sono una garanzia quasi tutti gli album della Dapton Records, album cartonati, album spesso in mono, proprio per richiamare quelle registrazioni degli anni 60. E lo stesso Gabriel Roth ha deciso di utilizzare solo strumentazioni analogiche, quindi niente Pro Tools, computer e via dicendo. What is this? What is this? People say I'm acting. Un suono anche qui che è diventato caratteristico anche per la presenza dei Dap King, che era la band resident di questa casa discografica, in cui Gabriel Roth suona anche il basso elettrico. Just wanna testify, say I can't hold it, no, no. I just can't hold my peace. Oh, when you look around at the world today, it brings tears to my eyes. I just can't hold my peace. But I'm not worried about it, cause I know God said there's gonna be a better time. I just can't hold, just hold on a little while longer. My peace. Keep on praising God today, y'all. I just can't hold. Yeah, yeah. E dalla Dapton House of Soul, appunto questa casa bifamiliare convertita in casa discografica a Brooklyn, non possiamo che attraversare il ponte e andare a Manhattan. E allora, se ci troviamo a Manhattan, non possiamo che andare al Village Vanguard. Dal 22 febbraio del 1935 che Max Gordon nella 7th Avenue al Greenwich Village di New York aprì appunto questo piccolo, piccolissimo locale che dal 1957 è diventata una vera leggenda per ogni musicista di jazz. Oh, infatti all'inizio il Village Vanguard era un locale in cui si facevano spettacoli di cabaret, si leggevano poesie e la musica era soprattutto quella popolare. Fino bene alla svolta del appunto del 1957, quando il locale divenne esclusivamente un locale di jazz. E come già il nome stesso lascia intendere, al Village Vanguard si andava a far sentire cose nuove le fece sentire Sonny Rollins col suo trio, e quindi fu la prima volta che un sassofonista si presentava dal vivo senza piano. E poi anche le registrazioni di molti dischi fecero la fortuna del Village Vanguard, gli diedero notorietà e dischi, e che dischi! Ricordiamo quelli di Bill Evans, quelli di John Coltrane, quelli di Miles Davis, appunto di Sonny Rollins, insomma chiunque poteva andare a suonare, insomma riuscire ad andare a suonare al Village Vanguard era davvero un curriculum, faceva curriculum per ogni musicista di jazz. Quelli che abbiamo scelto di proporvi è un live registrato negli anni 90 dal sassofonista Joshua Redman con il suo quartetto, completato da Peter Martin al piano, Christopher Thomas al contrabbasso e la batteria è quella di Brian Blade. Figura particolarmente importante per il Village Vanguard era quella di Lorraine Gordon, ossia la moglie, poi diventata la moglie di Max Gordon. Lei, che era nata il 15 ottobre del 1922, sposò poi in realtà prima, nel 1942, Alfred Lyon, il cofondatore della Blue Note. E poi invece seguì il pianista Thelonious Monk e decise proprio di portarlo al Village Vanguard nel 1948 e presentarlo a Max Gordon. E da lì nacque l'amore, quindi loro si sposarono nel 1949 e da allora Lorraine Gordon è colei che si occupa prevalentemente della direzione artistica del Village Vanguard, anzi direi che si occupava, perché lo scorso 9 giugno è morta all'età di 95 anni. E fino appunto a quella data la si poteva sempre ammirare all'ultimo tavolo del Village Vanguard col suo immancabile bicchiere di whisky. Insomma, il Village Vanguard è un locale veramente storico, anche perché è rimasto sempre nella stessa sede, con gli stessi arredamenti, con lo stesso palco, un locale minuscolo che veramente vi consigliamo di andare a visitare se vi trovate a New York. 17:13 e anche Attica Blues volge al termine, ma non prima di ascoltarci un ultimo grande musicista di New York, visto che ci siamo. E allora, lui è William Parker e qui lo ascoltiamo col suo quintetto formato da Ron Brown al sassofono contralto, Louis Brains alla tromba, Hemi Drake alla batteria, Harry Yakamoto al piano e Lina Conquist alla voce. Questa è Cornmeal Dance. The sun, mother, ascending north to the forever mountain, where it rains eternally. Beautiful flower, covered by the sun, mother, ascending north to the forever mountain, where it rains eternally. My sister sails across the lake that calls the people to drop their anger. Drop their anger. May all ill thoughts towards other human beings vanish. May all thoughts towards other human beings vanish. Entering the grace of yesterday, picking up a juju stick on the way. Entering the grace of yesterday, picking up a juju stick on the way. Calling out to all painters of autumn, painters of autumn, the mountain is dancing, the mountain is dancing. Una delle più brillanti e interessanti ritmiche in circolazione, quella formata appunto da William Parker al contrabbasso e Hemi Drake alla batteria. Noi interrompiamo il nostro lungo viaggio intorno alla black music, lo interrompiamo a New York, ma pronti comunque a riprenderlo il 5 settembre, il primo giovedì di settembre. Stop. E io questa puntata la vorrei dedicare a Ninì, una persona a cui volevo veramente bene e che ci ha lasciato questa notte. E ovviamente dedicarla anche a tutti voi che ci ascoltate, ci sopportate e supportate anche, insomma, anche un ringraziamento speciale per il raggiungimento del crowdfunding questa primavera e quindi il nostro nuovo trasmettitore. Che bellezza! Ma non disperate, ci sono sempre i nostri podcast online sul sito della radio www.ondarossa.info. E ovviamente anche la nostra playlist su Spotify di più di 40 ore di Black Music, in cui potete trovare tutte, molte, insomma, delle, dei brani che caratterizzano negli anni e hanno caratterizzato questa trasmissione. Ringraziamento speciale anche a tutti i nostri ospiti che in quest'annata sono venuti a trovarci, non faccio i nomi per non dimenticarmi qualcuno, ma insomma tutti graditi e tutti speciali. The face of the stream in the middle of the forest. Attica Blues. Oh, little green frog, pulling all the stops out. High sound, high silence, high sound, high silence. Picking up a juju stick on the way, entering the grace of yesterday. Picking up a juju stick on the way, calling out to all painters on them, painters of a dream to me, except you, except your sweet soul. High sound, high silence, high sound. E allora buona estate a tutte e a tutti. L'appuntamento con noi è il primo per il primo giovedì di settembre, sempre su Radio Onda Rossa, sempre Attica Blues.